Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, 7:35 minuti di sabato mattina, inizia una nuova puntata di Si può fare, inizia un nuovo weekend di Radio 24 in diretta. Tra poco una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8, poi inizierà Si può fare. Intanto i nostri contatti, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter @ Si può fare 24, potete dialogare con noi, con me, fin da subito in tempo reale, anche grazie al 349-238-6666, anche su WhatsApp, e così possiamo cominciare a commentare insieme i giornali di questa mattina. Vai, iniziamo. Allora, giornali di oggi che seguono gli sviluppi del voto americano con i primi nomi scelti da Donald Trump come futuri consulenti, ministri e quant'altro. Poi diciamo questa suonata di Banca Italia, questo allarme di Banca Italia per l'effetto voto, questa attesa, questo vuoto che c'è prima del voto del 4 dicembre, che sta diventando uno spartiacque inesorabile della politica italiana, quindi questo rischio di effetto volatilità che pesa sulle borse. E altre notizie, altre cose ancora. Cominciamo con il Corriere. Linea dura di Trump, prime nomine, giustizia, sicurezza e CIA affidate a uomini dell'ala destra. D'altra parte, cosa ci si poteva aspettare? E questo giustamente che Trump sta facendo, perché ha vinto le elezioni. I casi di Sessions, Falco anti-immigrazione, Flynn generale filorusso. E la stessa notizia la ritroviamo anche su Repubblica. Trump sceglie solo i falchi per la Casa Bianca. Messico sul confine, la rivolta delle aziende americane che temono per la questione del protezionismo. La stampa, per esempio, banche centrali, avvertimento a Donald Trump, Draghi si schiera con la Federal Reserve, no ad un mercato con meno regole, quindi l'importanza delle regole. Poi dollaro ai massimi a 13 anni, la BCE prepara l'allungamento del piano di stimolo, Ford e Apple pensano al Made in USA, al Made in Stati Uniti. La vede così il Sole 24 Ore, che però non è legata a diciamo il quadro economico di giornata a Trump, tanto alle borse in calo con le banche, così scrive il Sole 24 Ore. Draghi pronto ad estendere il quantitative easing, non possiamo, cioè l'iniezione di liquidità tramite acquisto dei titoli sul mercato, non possiamo abbassare la guardia sull'inflazione. Borse europee negative, appesantite soprattutto dalle vendite sulle banche. Milano c'è dell'1,75%, scrive il Sole. Tra le valute continua la corsa del dollaro ai massimi da 13 anni per l'effetto Trump e la possibilità di un rialzo dei tassi, che è stato ventilato dalla governatrice della Federal Reserve Janet Yellen in settimana, che potrebbe arrivare in dicembre. L'euro scivola così sotto 1,06. Torniamo però alla questione di Trump e vediamo quali sono queste nomine di cui appunto parlano i giornali e di cui parla un po' il mondo intero, perché tutti gli occhi sono puntati naturalmente su America in queste ore, come è normale che sia. Allora, cominciamo con Michael Flynn, il generale amico di Putin, è nato tra i democratici, un ufficiale di grande, che sarà consigliere per la sicurezza, un ufficiale di grande capacità, caduto però in disgrazia, scrive il Corriere, per aver assunto su guerra e terrorismo atteggiamenti incompatibili con il Pentagono e con la Casa Bianca a guida democratica. Un personaggio ora risorto nei nuovi panni di fan di Donald Trump, che nominandolo consigliere per la sicurezza nazionale gli ha dato ampi poteri. Sarà lui, questo Michael Flynn, la voce più influente sulla politica estera, la presenza militare americana nel mondo, la lotta al terrorismo, capitoli, capite quanto sono importanti, a fianco di un presidente come Donald Trump, che ha, questo è giusto anche ricordarlo, poca, non dico conoscenza, non lo dico io ma lo scrive il Corriere, ma poca dimestichezza, perché non è un politico, questo sì, su queste materie. Ma in ogni caso, Michael Flynn, un'avventurosa apparizione a fianco di Vladimir Putin un anno fa e alcuni conflitti di interesse alle spalle, titolare infatti di una società di consulenza in rapporti d'affari con ambienti vicini al governo turco e di altri paesi medio orientali, oltre che con la Russia, cioè questa società di consulenza sua collabora con la Russia, con paesi medio orientali e con la Turchia, e non c'è niente di male naturalmente, se non poi il rischio di un conflitto di interessi, perché nel momento in cui diventi consigliere per la sicurezza potresti orientare le decisioni del tuo paese a favore dei tuoi di chi ti paga le consulenze, ma questo è un altro discorso. Abbandonerà credo le cariche di questa sua società di consulenza, l'America su questo è abbastanza rigida e intransigente, ma che altro dire, laddove Obama invitava a evitare conflitti di civiltà, Flynn giudicava un atteggiamento razionale, tanto per dirne una, avere paura del mondo musulmano, cioè in generale, no, del mondo musulmano, quindi non degli estremisti. Quindi queste sono un po' le posizioni di Michael Flynn. C'è anche il signor Sessions, Jeff Sessions, giudice federale che sarà ministro della giustizia. Tanti anni fa un suo vice testimoniò di essere stato intimidito, attento a un suo vice di colore, a come ti rivolgi a un bianco. Vabbè, lui in tribunale aveva mostrato scarso rispetto per un avvocato afroamericano chiamandolo ragazzo, ma soprattutto la battuta micidiale, questa sì, sul Ku Klux Klan, il movimento razzista e soprattutto che rivendicato in passato anche azioni violente nei confronti dei neri, dice: non avevo nulla contro di loro fino a quando non ho scoperto che molti fanno uso di marijuana. Una battuta forse, ma insomma, un conservatore molto radicale, ma rispettato dai compagni di partito e avversari per la sua competenza giuridica e la sua integrità. Oggi politico dell'Alabama, Sessions appunto sarà il ministro della giustizia di Trump, cerca di placare i suoi molti critici. Non sono il Sessions di 30 anni fa. Quindi insomma è cambiato, e questo è il ministro della giustizia futuro. Poi c'è il capo della CIA, che sarà Mike Pompeo, di origine italiana, come si capisce dal cognome, Campano, un ultra della destra radicale schierato da anni con i Tea Party contro l'establishment repubblicano, cioè l'ala destra del partito repubblicano, dei conservatori diciamo americani. Però uno dal sangue freddo, viene definito astuto, brillante, acuto, deputato del Kansas, che ha conosciuto il mondo dei servizi segreti da membro del comitato intelligence della Camera, è parso al neopresidente la scelta giusta per guidare la CIA, cioè i servizi segreti di intelligence americani, che come sapete sono abbastanza importanti, come normale che sia. Pompei è un grande nemico dell'accordo per il nucleare iraniano, tanto per dirne un'altra, che invece per l'ex presidente, a questo punto ancora in carica, Barack Obama, è un punto centrale della sua politica estera, cioè avere riavvicinato l'Iran ai paesi occidentali con il gruppo non solo costituito dall'America ma dagli altri paesi, che ha trovato questa intesa, diciamo un riavvicinamento dell'Iran, è la fine delle sanzioni sull'Iran, in cambio, che fu festeggiata a Teheran con grandi feste, cioè la riconquista in qualche modo nel campo delle democrazie occidentali di un paese come l'Iran, in cambio del fatto che l'Iran ha accettato, diciamo, controlli sugli sviluppi dei suoi piani nucleari. Ma tutto questo per Trump non va bene, non va bene nemmeno per il futuro capo della CIA Pompeo, che lo ha espresso pubblicamente, ma insomma non, poi staremo a vedere. Ecco, questi sono però i tre uomini che in questo momento sono un po' le novità sul fronte delle nomine da parte di Donald Trump. A proposito di Trump, c'è un'intervista al ministro degli esteri Gentiloni, italiano, che velocemente vediamo di cosa si tratta, che commenta un po' questa situazione. Trump, Putin e la Cina, l'Europa sembra un vaso di coccio. La domanda è, risponde Gentiloni, l'Europa è divisa e rischia l'irrilevanza, ma il punto non è essere preoccupati da Trump, sta nell'avere politiche su difesa, immigrazione e crescita economica che rendano credibile un ruolo globale dell'Europa. E fin qua l'abbiamo detto mille volte, quali sono i passi avanti sulla difesa comune che sono stati fatti? E qui Gentiloni si spinge un po' più in là, dice: Italia, Francia, Germania e Spagna potrebbero ricorrere agli articoli dei trattati che prevedono una cooperazione permanente rafforzata tra alcuni paesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quei paesi che vogliono avere iniziative comuni nell'Unione Europea, anche in assenza di una maggioranza unanime, possono portare avanti progetti a gruppi ristretti. Quindi in questo caso Italia, Francia, Germania e Spagna sul tema della difesa comune, perché è evidente che c'è bisogno di un per poter contare qualche cosa sullo scacchiere internazionale, di una di l'unione fa la forza, ecco, per dirla in maniera molto semplice. È un tema stranoto anche questo, e speriamo che però non significhi un'accelerazione di scenari mondiali nei quali ci sono blocchi contrapposti, una memoria che non vorremmo rivivere, insomma, la guerra fredda o addirittura andare più in là quando ci furono delle guerre. Ma insomma, Trump vede la NATO, questa è una domanda importante a Gentiloni, quasi come un regalo degli Stati Uniti all'Europa, è allarmato per le conseguenze. E qua Gentiloni dice una cosa importante, perché dice: la NATO non è un'organizzazione benefica degli Stati Uniti, ma è una collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico. La nostra missione NATO più importante da 15 anni a questa parte è in Afghanistan, organizzata in base all'articolo che prevede la comune difesa di un paese sotto attacco. Quel paese sono gli Stati Uniti. Ricordiamoci quello che è accaduto nel 2001 con l'attacco alle due torri. Quel paese sono gli Stati Uniti, dice Gentiloni. L'impegno è costato molto in termini di vite umane, oltre che economici, anche all'Italia. Cioè a dire a Trump: guarda che la NATO non è un favore che tu fai a noi, ma in questo momento è un favore che noi abbiamo fatto a te e forse al mondo, andando in Afghanistan. Poi i risultati sono stati quelli che sono stati, a dare la caccia ai talebani che vennero ritenuti responsabili dell'attacco in America alle Torri Gemelle. Traffico, torniamo tra un attimo. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... E allora, abbiamo letto di Donald Trump, delle nomine, delle prime nomine, ministro della giustizia, consigliere per la sicurezza e capo della CIA, di chi sono questi tre personaggi. Altre notizie, altri titoli diversi su altri argomenti, per esempio il giornale e Libero si occupano entrambi di quello che accade nel centrodestra in Italia. Libero scrive: Parisi è impazzito, quasi faccio un partito, senza incarico, senza poltrona, senza voler tornare al lavoro. L'ultimo delfino silurato da Berlusconi fonda l'ennesima molecola incazzosa del centrodestra, si chiama Energie per l'Italia, ma non arriverà in bolletta. Anche il giornale: Parisi balla da solo, addio Forza Italia, il referendum costa 28 miliardi di mance, ultimi sondaggi no in testa, centrodestra in movimento. Leggiamo velocemente. Renato Farina scrive: Stefano Parisi ha scelto anche lui il suo loculo nel cimitero dei delfini, è una sindrome inesorabile, che destino quello dei viceré di Silvio, il mausoleo di Arcore con la sua stupefacente serie di lapidi meriterebbe una Spoon River apposita. Il primo fu Casini, Berlusconi gli propose di fare il segretario di Forza Italia, era il 94, 22 anni fa. Viene da ridere perché è una storia che sembra ieri, ma sono passati più di 20 anni. Lasciamo perdere i minori, siamo affini. Come si chiamava il suo partitino Italia e qualche cosa, Italia Futura, lo dico io giusto per la cronaca. Quindi Tremonti, che però è restato nei paraggi di Silvio, nessuno ricorda la sua formazione bastevole appena per la sua meritata rielezione. Il delfino principale della banda di Arcore è stato di certo Alfano, cioè tutti i nomi di, che sono poi allontanati da Berlusconi, quindi Verdini, addirittura la sua ala che adesso sostiene Renzi, poi Fitto e i suoi conservatori riformisti, non dimentichiamoci di Bondi. Vabbè, questo è il ricordo del passato che parte dal presente, con Parisi che, nominato e incaricato dallo stesso Berlusconi di fare una ricognizione nel centrodestra, di fondare un movimento, di federare le varie anime, si è staccato anche lui e, come scrive il libro, è impazzito, cioè nel senso che va, o come scrive il giornale, balla da solo. Il giornale, che però ha un'altra in prima pagina, titolo, si occupa di banche, truffa delle banche, bufera sui mutui casa, c'è l'ipotesi rimborso. Che succede? Sentenza europea, Euribor troccato, in ballo ci sono 16 miliardi di euro. La sentenza non è di adesso, ma accade che la Commissione europea, scrive il giornale, 3 anni dopo avere condannato 4 tra le più grandi banche europee per avere truccato il tasso di interesse che incide sui mutui di milioni di cittadini europei, ha finalmente tolto il segreto al testo della sentenza, e da quel documento di 30 pagine potrebbe valere, solo per gli italiani che hanno un mutuo alle spalle, ben 16 miliardi di euro di rimborsi da chiedere alle banche. Cioè è ovvio che questa sentenza di 3 anni fa, adesso è stata resa pubblica, potrebbe contenere all'interno spunti per tanti altri ricorsi. La storia parte da una scoperta di un cartello tra le principali banche europee. Lo scopo era manipolare a proprio vantaggio il corso dell'Euribor, il tasso di interesse che funge da riferimento per un mercato di prodotti finanziari da 400.000 miliardi di euro. Io questa cifra la leggo così com'è, ma capite che è una cifra imponente, imponente. Allora, a proposito, abbiamo ancora non tanto tempo. Allora, intanto c'è De Luca che chiede scusa a Rosy Bindi, lo sapete, ha detto: credo di avere chiarito che la mia posizione mezz'ora dopo, esprimendo il mio rispetto per l'onorevole Bindi, è del tutto evidente che le mie parole, presentate così come sono state presentate, erano obiettivamente inaccettabili e obbligavano a chiedere scusa, cosa che ho fatto. Il commento di Roberto Saviano su Repubblica: De Luca, le parole della violenza e la politica che perde il rispetto. E insomma, scrive Saviano: per me De Luca impresentabile resta, non alle elezioni ma davanti ai suoi elettori, davanti agli italiani e ai cittadini campani, per la mancanza di consapevolezza del suo ruolo, l'incapacità di comprendere che il territorio su cui come governatore agisce dà a termini come infame e a espressioni come si dovrebbe ammazzare, le cose che ha detto De Luca, seppure in un mezzo fuori onda, nei confronti di Rosy Bindi, hanno significati precisi, ricorda Roberto Saviano, che quotidianamente trovano una declinazione pratica. Cioè in Campania dire sei un infame e si dovrebbe ammazzare cioè, ha un significato preciso. Quindi De Luca o è inconsapevole o è pericoloso per sé e per gli altri. Questa è la conclusione. Una violenza verbale calata in una realtà, quella in cui viviamo, in cui i ragazzini impugnano armi e altri si fanno saltare in aria, che per Saviano è inaccettabile. Abbiamo finito il tempo, credo, sì, a disposizione. La prima pagina della Stampa, giusto per dire una bella notizia: la carica dei baby registi al Torino Film Festival, quindi tutti al Torino Film Festival a vedere le opere dei giovani registi del cinema italiano. Il cinema ci salverà. Giornale Radio, ci troviamo dopo, non si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you, so just dance. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato. Ben ritrovati, 800 24 00 24, come sempre ogni giorno, ma anche ogni sabato e domenica mattina vi aspettiamo per stare con noi in diretta per raccontarci le vostre buone notizie di questa settimana. Come sapete, cerchiamo di chiudere la settimana in tono positivo, Carlo. In modo migliore da come si aprono di solito le settimane. Certo. Milano Monterosa? Piovigina nebbia, direi. Sì, oggi non volge al bello, assolutamente, anzi si annunciano giorni di pioggia senza tregua. Cari ascoltatori, mi viene da ridere perché... pensavo che ti venisse da ridere, perché a me questo ruolo di meteorologo mi sta strettissimo, perché insomma, sei molto bravo. Non sono in grado. No, sei molto bravo, hai una grande sensibilità per il meteo. Secondo me, no, rido perché ci stiamo tirando dietro. A noi piace molto questa cosa di Bob Dylan, sarà che ci piace Bob Dylan, e ci piace anche vedere come, per esempio, sì, siamo nel ristretto mondo dei social, degli amici lontani che commentano le cose che abbiamo in comune, tutti che si dividono su Bob Dylan, se è veramente irriverente, si possono usare anche parole più pesanti, poi è uno stronzo. Com'è che, cioè, non va, perché non va. Ha altri impegni. Beh, il bello qualcuno però è la dice, scusa. No, ma lui è un grande perché si può permettere tutto, ha scritto pagine, io sono tra quelli che, devo dire, si inginocchiano di fronte alla sua grande... Ma lo penso totalmente, però il problema è come ha risposto, nel senso che secondo me tu puoi anche decidere di non ritirare il Nobel. Sartre lo fece, è un atto politico che si può fare. Nel momento che tu dici no, ho deciso che Sartre lo prendo, lo fece, certo, lo fece. Rifiutò il Nobel, però un Vedi altro che conto... Gabardini trasmissione ti apre degli spazi di ispirati di letteratura altissimi, io non lo sapevo. Però è molto diverso invece dire ho altri impegni, ci stiamo tutti chiedendo ma che impegno hai se non... cioè, a chi è che non puoi dire scusami moltissimo, la riunione, ma oggi... di condominio è judo, non si è capito quale sia. Non credo che sia un concerto, perché tutti saranno andati a controllare se il 10 dicembre Bob Dylan ha un concerto. Comunque allora, hanno già trovato una soluzione, perché l'Accademia di Svezia ha risposto e ha detto che quando l'anno vuoi, prossimo Bob Dylan farà farà un concerto, certo, in Svezia, a Stoccolma, e quindi quella sarà l'occasione, perché in realtà chi vince il Nobel deve anche fare una lezione magistralis, come si suol dire. In realtà non è precisissimo, nel senso che puoi fare sia un video, puoi anche fare un disegno, credo, però ha deciso che andrà a farlo. La vera domanda è che impegno ha. Sì, allora noi ci vogliamo divertire con voi ascoltatori e vi vogliamo chiedere la scusa più bella che vi siete inventati, quella che poi vi siete tirati dietro anche più critiche, forse. Esatto, anche la più criticata, perché su Twitter è scoppiato le scuse. L'ampio mondo delle scuse che ci sta, perché quella di Bob Dylan in realtà è una non scusa, perché dice ho un altro impegno, ma non dice quale. Esatto. È furbo, perché se ho un concerto tutti potevano dire ma è più importante, invece così non si esiste sa. Il dubbio per cui lui magari abbia una questione fisica, e a quel punto se hai un trapianto di rene piazzato dietro, a parte che secondo me anche il chirurgo gli dice guarda passo l'11. Vogliamo capire se questa cosa si può fare oppure no. A me per esempio è rimasta una curiosità da quando andavamo a scuola, la memoria ci riporta sempre in quei momenti là, non ho mai provato a fare quello che questa leggenda popolare che circolava, di mettersi i sigari sotto le ascelle per farsi venire la temperatura, la febbre. Tabacco funziona questa cosa, io non l'ho mai fatto, non ho mai avuto il coraggio di farla. Io l'ho fatto, ma poi ho iniziato a fumare lì, il problema è diventato un altro. 800 24 00 24, le scuse più clamorose. Adesso invece ci concentriamo su una cosa ancora più importante, che è la scuola, gli asili nido, i servizi per l'infanzia, servizi che potrebbero essere privatizzati a Rimini, è polemica. Allunga, mi spieghi questo mistero, il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio il cielo intero, è mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone, il coniglio spaurito né a quanto il leone. Un grande saluto a Bobo Rondelli e a questa sua interpretazione Il cielo è di tutti, da una poesia di Rodari, se non ricordo male. La notizia è quella che riguarda la scuola di tutti. Il comune di Rimini ha pubblicato un bando per affidare ai privati una serie di asili nido e scuole per l'infanzia, sollevando però le proteste dei genitori e degli educatori preoccupati, i primi per il livello, la qualità dell'istruzione e della formazione dei bambini, e gli altri per il posto di lavoro e per i loro stipendi. È con noi l'assessore alla scuola e alle politiche educative del Comune di Rimini, Mattia Morolli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutti però si domandano perché avete fatto questo bando per affidamento ai privati dei servizi nido e scuole per l'infanzia nel momento in cui le scuole di Rimini hanno un buon livello di soddisfazione, a detta dei genitori, fino ad oggi. Per migliorare il servizio, Morolli, o per risparmiare, che è l'altra ipotesi? Beh, per dare questo servizio di qualità, che ha raggiunto un grande risultato, 9.4 di soddisfazione da parte dei genitori, degli utenti. Certo. E per tenerlo il più allargato possibile, è un tema appunto di quantità. Nella ristrettezza delle normative del tetto di spesa del personale, noi avremmo rischiato di lasciare a casa ben 100 bambini. Perché? Quindi, poteva succedere questo, Morolli? Per quale motivo? Questo succede perché, ad esempio, con il tema del turnover, il fatto che su 4 figure che escono e poi assumere solamente una, in un settore molto sensibile come quello degli insegnanti, che al pari dei vigili urbani puoi assumere solamente quella figura specifica, e avendo già raggiunto, perché è quella che un settore in cui, ahimè, si raggiunge una situazione in cui, essendo un lavoro logorante, hai un forte ricambio. Cioè, lei ci sta dicendo che il Comune di Rimini non ha la possibilità di tenere a contratto un numero sufficiente di maestre per le scuole dell'infanzia? No, non ho detto questo. Ci sono dei tetti di spesa e di personale. Quindi, siccome c'è anche una normativa riguardo il personale, che in questi anni abbiamo raggiunto, perché, le faccio un esempio, solamente nel mese di settembre abbiamo trovato 4 figure non più idonee all'insegnamento, che sono 4 figure che poi fanno spesa nel tetto del personale. Sì. Allora il tema era o chiudere il servizio, il prossimo anno avremo chiuse addirittura 4 sezioni, lasciando appunto a casa 100 bambini, o altrimenti continuare, come diceva lei in questa trasmissione, a dare questo servizio il più possibile. Ma si tratta di insegnanti, di insegnanti non più idonei, perché hanno raggiunto un livello di età, non lo so, perché ci sono, che problemi ci sono con questi insegnanti non più idonei? Da un punto di vista di non più abilità fisica, piuttosto che altri problemi. Cioè, non ce la fanno più, hanno la schiena rotta a tirare sui marmocchi, perché questo si sa. Cioè, i due problemi fisici, io ho due bambine piccole, i due problemi nei quali si incorre sono l'udito, perché i bambini urlano, e la schiena. E però, perché i bambini pesano. Sembra una battuta, ma è la verità. Però i genitori dicono... Ha dimenticato le corde vocali. Certo, anche perché bisogna farsi sentire. I genitori però dicono, assessore, che c'è il decreto Madia dell'anno scorso, di quest'anno anzi, che prevede una deroga al patto di stabilità proprio per stabilizzare i precari e per assumere questi insegnanti che mancano. Quindi non si spiegano perché non abbiate fatto ricorso a questo decreto anziché affidare ai privati i nuovi servizi. No, guardi, il decreto Madia va letto molto bene, perché come la normativa Bolkestein, la leggono tutti il titolo, non leggono mai il contenuto. Rimini in questi anni ha sempre assunto anno per anno degli insegnanti, solamente lo scorso settembre, quindi non 2 ere geologiche fa, ma settembre, abbiamo assunto ben 10. Poi, come gli ho detto, ne assumo 10, ma nello stesso mese ne trovo 4 di figure non più idonee. Ora qui il tema, senza andare in formule romantiche, è vedere quello che è un tema di servizio più ampio possibile, e dall'altro rendersi conto di quello che è la realtà. Da 7 anni abbiamo già una forma di gestione non solamente pubblica, ma anche con altre realtà esterne. Ogni giorno 160 bambini vanno in queste strutture, sia nella zona nord, nella zona sud, nella zona del Forese di Rimini, con ottimi risultati. E questa gestione mista ha portato a quel risultato molto soddisfacente che diceva lei, sì, puntata, esatto, secondo, esatto. Però si teme voce... che possano cambiare gli equilibri, perché assessore, la regione pure indica un equilibrio tra un 60% di posti affidati al pubblico e un 40% di posti affidati ai privati, cioè benissimo, ce ne facciamo una ragione, però il vostro bando non rischia di capovolgere le proporzioni, perché quanti posti andrete ad affidare complessivamente ai privati con questo bando? Lei mi manda un assist incredibile, sì? Perché è un nido su 6 a Rimini, quindi il 15%, e 5 materne su 18, quindi siamo al 35%. Non solo rispetteremo il mandato del sindaco Gnassi per questo quinquennio, stando sotto il 40%, ma abbondantemente staremo sopra i margini che la regione ci indica. E le dico di più, in una macro area che va dal comune di Mantova fino al comune di Pesaro, Rimini come gestione diretta sarebbe la seconda in assoluto in questa zona. E allora come si spiega, assessore, le proteste dei genitori che anche oggi per esempio terranno una manifestazione, un'assemblea cittadina, sono molto preoccupati insieme naturalmente ai sindacati, perché loro dicono che voi volete privatizzare in realtà il 40% dei posti pubblici adesso disponibili, quindi cifre diverse da quelle che dite. Vabbè, ma la matematica è la matematica, cioè sempre parlando di scuola. Quindi, quindi la matematica, cioè, se ne ho 5 su 18 è meno del 40%, ma ad ogni modo... Sì, vabbè, adesso che sia il 30, che sia il 40%, la cosa che le volevo chiedere, mi scusi, perché stiamo dicendo che a Rimini le scuole vanno benissimo, sono tutti molto contenti, voi decidete di privatizzare una percentuale alta di queste scuole, e in realtà i cittadini dicono che questo non porterà alcun risparmio alle casse comunali, non consentirà la stabilizzazione delle 80 maestre educatrici e non migliorerà il servizio. Quindi che cosa sta succedendo? Allora, 1, 2, 3. La prima, il fatto che non risparmiamo nulla è una risposta oggettiva al tema che non svendiamo nulla. Secondo Quindi in punto, realtà non risparmiate nulla? No, perché alla fine... E allora perché darlo ai privati? Se non si risparmiano lo può fare il pubblico, che vanno tanto bene le scuole pubbliche? Perché ho dei limiti di assunzione, capito? Non potete. Ma c'è il decreto Madia che dice che voi in realtà potete assumere tutte... Cioè potete uscire... Ma non è mica dal... vero che c'è una deroga... Ma non dice così il decreto Madia, cioè, non fermiamoci agli slogan, guardiamo un attimo la normativa. No, vabbè, ma non è uno slogan, sarebbe un bruttissimo slogan, c'è il decreto Madia, le pare uno slogan? Ma guarda, mi scusi, allora, però, allora assessore, non abbiamo capito, no, io ho capito che il decreto Madia consente, deroga al patto di stabilità per assumere a tempo indeterminato il personale insegnante educativo per garantire la continuità delle scuole dell'infanzia, è sbagliato questo? No, c'è un dato importante che ci tenevo a finire, dire che avete iniziato voi questa trasmissione nel dire, quando sì, poi si parla di servizi, in una scuola non c'è solamente il servizio educativo, c'è anche un servizio legato all'alimentazione, alle mense, noi già ne abbiamo 13 su 16 già date a un affidamento esterno, come gli educatori nella fascia handicap, come ad esempio gli stessi bidelli. Quel 9.4 di grande risultato ottenuto dalle scuole di Rimini è un fatto raggiunto che per me non è un punto d'arrivo, ma è un punto di ripartenza per dare sempre un servizio più ampio e più completo, in cui già ci sono figure esterne che danno questo servizio in modo integrato. Sì. Il mio tema a questo punto era a quante più persone posso dare questo servizio, e lo posso fare tramite un bando che mi permette di dare il più possibile questo servizio. Tant'è vero che tramite questo bando noi manterremo come comune a l'indicazione sulle rette, B, la discussione sulle rette, C, un controllo quotidiano su quello che è il progetto pedagogico, sempre sul bando, 80 punti su 100 vanno sul progetto pedagogico. A proposito del bando però, assessore, a proposito del bando, mi conferma che le nuove insegnanti saranno assunte con contratti diversi e retribuzioni diverse, e le cooperative potranno adottare retribuzioni anche più basse? Principalmente più basse, non credo proprio più alte, perché se voi non volete non andrete al risparmio, non credo neanche che spenderete di più, quindi non spenderanno di più le cooperative, guadagneranno di meno in sostanza questi insegnanti. Guardi, le racconto un episodio che fa parte dell'amministrare. 2 anni fa io ero capogruppo di maggioranza. No, però mi risponda alla domanda. Saranno contratti diversi, perché la gente è giusto che sappia, no? Perché siccome noi sappiamo che già gli insegnanti delle scuole materne non guadagnano stipendi, guadagnano pochissimo. Guadagnano poco, per non essere offensivi, guadagnano abbastanza poco. L'idea è che guadagnino ancora meno, dispiace, ecco, non so come dire. Guardi, Il racconto era appunto per spiegare questo. È ovvio che la forma contributiva è diversa, però punto A, lì ci stanno i sindacati a controllare che il contratto sia quello nazionale. Punto B, siccome il tempo... Beh, però nel momento che diventano delle cooperative diventa un po' diverso anche il discorso dei sindacati, mi scusi. Perché non possono controllare i sindacati quando si fa di cooperativa? Certo che possono, ma se stiamo parlando di stabilizzare 80 maestre è molto diverso se invece all'interno di una cooperativa poi si viene spostati in altri posti. È diverso, no? Essere, far parte del sistema scolastico pubblico, essere una maestra che deve essere stabilizzata, e invece far parte di una cooperativa che a un certo punto ti manda una letterina e non lo deve fare più il comune dicendo grazie mille, non abbiamo più bisogno dei suoi servizi. Potrebbe succedere questo, assessore? No, sono cose diverse. Intanto il comune continuerà ad assumere tenendo quel 65% di gestione diretta. Ah, quindi è il 35% invece del 40%, quello che non è più diretto. È 35%, la matematica è quella. Sì, sì, sì, sì, esatto. Perfetto. No, no, così abbiamo dato la matematica, prima noi abbiamo detto il 40%, invece è il 35%, sì, sì, e rotti per cento. No, facciamo la questione del per cento. Esatto. Punto, esatto. L'altro punto è, come dicevo lì, qualche secondo fa. Sì. Sui contatti delle cooperative, io 2 anni fa avevo a che fare da capogruppo su un tema inerente il bando per gli educatori nella fascia 6-14 anni, 2 anni dopo ho visto gli stessi ragazzi che avevano dei dubbi sul contratto di cooperativa, in contatto 2 anni dopo ho detto che quel contratto fatto al Comune di Rimini era il migliore e quello economicamente più soddisfacente a livello romagnolo. Io non ho capito benissimo lei cosa sta dicendo, però lasciamo perdere perché il tempo passa, il tempo è tiranno. Le faccio una, forse gli ascoltatori hanno capito meglio di me, le faccio un'altra domanda. Queste insegnanti non più idonee, anziane, che hanno la schiena rotta, cosa succederà? Giusto per capire, verranno assunte dalle cooperative? Non c'è un obbligo di assunzione del personale docente uscente? Le insegnanti non più idonee rimangono in forza al Comune di Rimini, sì. Sono già utilizzati in altri uffici. Cambieranno, come succede quelle comunali, ma stiamo parlando di quelle delle cooperative? Quelle cooperative, vediamo. Cioè, se no, occuperanno le cooperative? No. Allora, quelle che non sono più idonee col contratto del Comune determinato... No, a noi interessano quelle dei servizi che verranno affidate ai privati. Quelle insegnanti lì, che fine fanno? Non è un problema del Comune, mi sembra di capire, ma sarà un problema delle cooperative. Giusto? Sì, però non posso dire una cosa, c'è anche un problema, cooperazione, come succederebbe, c'è una bella parola. Adesso non è che va disprezzata in questo modo. No, magari io non la disprezzo per niente, ma proprio no, per niente. L'importante è sapere, se abbiamo saputo qualche cosa di più, cooperazione o non cooperazione. Carlo, ho ancora una domanda forse da fare all'assessore, no, no, no, poi salutiamo perché sono... In realtà tante cose, nel senso che ero curioso di capire come mai non siano state coinvolte le parti sociali, perché a sentir lei dice, guardi, stiamo facendo una cosa molto buona e magari è così. Mi chiedevo come mai ci sono i cittadini sul piede di guerra, perché non sono stati coinvolte le parti sociali, le delegazioni delle maestri, i pedagogisti, e quindi mi chiedevo come mai. Ma le pedagogiste, noi abbiamo un coordinamento pedagogico che tutti i giorni si confronta con le scuole, punto primo. Seconda cosa, per quanto riguarda giustamente anche le persone che manifestano, è avvenuto nel 2010 quando esternalizzavamo il servizio mensa e dopo 7 anni abbiamo risultati fortissimi. 2 anni fa eravamo quando c'era servizio sul tema dell'handicap, abbiamo raggiunto risultati eccellenti a livello regionale. Quindi lei dice volte... è una protesta, ma in realtà poi capiranno che è meglio così. Guardi, il cambiamento fa sempre paura. Come detto, non devo trovare formule romantiche, io devo dare dei servizi il più possibile estesi a tutti i miei cittadini. No, no, ma noi infatti ci siamo approcciati a questa notizia pensando che fosse una buona notizia. Nel momento che abbiamo visto che il risparmio non c'è, che in realtà i cittadini non sono contenti, sono contentissimi dell'attuale, che esiste una possibilità per stabilizzare delle persone che invece nel momento che entrano in una cooperativa, in più il bando, quando lei dice il servizio verrà migliorato, il bando parla di persone con 10 mesi di esperienza professionale, quindi immagino che i genitori siano preoccupati, non è che siano tantissimi 10 mesi di esperienza professionale. Ma guardi, no. 15 mesi lì anche per preservare delle figure che siano del territorio, quindi non per disperdere quella qualità che abbiamo raggiunto a livello romagnolo dal punto di vista dell'insegnamento. Cioè il problema è anche dei bandi e poi dopo come si prosegue una bella storia educativa come quella riminese. Certo. Vedremo. Beh, questo lo scopriremo vivendo. Io la ringrazio, assessore. Vi ricordo solo agli ascoltatori che oggi c'era un'assemblea comunale dei cittadini, fra l'altro in via 23 settembre nella sala comunale, lo dico per chi volesse partecipare. Resta la domanda: si può fare? Questa è la domanda che ci siamo posti questa mattina. Si può fare soprattutto se si vuol migliorare il servizio, oppure se si va magari a risparmiare qualcosa nella spesa pubblica. Ma se non si risparmia, come l'assessore ha detto, e il miglioramento dei servizi non è garantito perché siamo già a 9.4 su 10, difficile migliorare ancora, allora resta un po' la domanda: perché lo facciamo? La risposta dell'assessore è stata perché non avevamo gli strumenti praticamente giuridici per stabilizzare questi insegnanti. I genitori dicono: no, c'è il decreto Madia, punto di domanda. 800 24 00 24, tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, vi ha convinto la ricetta dell'assessore alla scuola del comune di Rimini a affidare ai privati servizi nido e dell'infanzia nelle modalità che abbiamo appena descritto, che non vado a ripetere. Tra poco ci sposteremo da Rimini a Milano, che ha riscoperto disagio, paura in alcuni suoi quartieri, famigerato quartiere di Via Padova. E poi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, cioè, vi chiediamo stamattina le vostre scuse più clamorose. Quando avete detto che non potevate andare da un posto e o vi hanno tutti beccato, o vi hanno tutti sbeffeggiato per la scusa, tipo dire: ho un altro impegno, purtroppo non posso venire a ritirare il Nobel. Proprio il 10 dicembre avevo sta pizzata con gli amici, come glielo dico? La riunione di condominio o chissà cos'altro. Ci fermiamo perché avevamo uno slot cortissimo in realtà con questo palinsesto, con queste pubblicità che ci sono, giuste, meno male che ci sono. Adesso diamo la linea al traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E con questa orchestra di Via Padova, ti ricordi l'orchestra di Via Padova? Ma sono certo, stati anche i nostri ospiti, li salutiamo. Sono una delle piccole storie di questo quartiere di Milano che in questa settimana ha riscoperto anche la paura. C'è stata una sparatoria in piazza Loreto sabato scorso, ritorna attualità la questione di questo quartiere famigerato. Ci sono stati episodi di violenza anche in passato. Vogliamo provare a ristabilire l'onore di questa zona di Milano scelta da tanti giovani milanesi per andarci a vivere. Quindi certo, ci sarà un perché. E soprattutto vogliamo domandarci: l'esercito è la risposta? I militari sono la risposta? E forse anche la vera cosa, visto che Sala ha detto: non appaltiamo questi problemi alla destra, direi forse non appaltiamo nemmeno le soluzioni, perché dire come grande soluzione chiamo l'esercito a Milano. Daniele Dodaro, portavoce di Nolo Social Street, Nord of Loreto. Buongiorno Daniele. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta. Ciao. Buongiorno. Allora, vi siete scelti, qualcuno a un certo punto ha scelto questo nome molto chic a dimostrazione del fatto che l'insediamento urbano sta cambiando in questo. Un tempo furono gli operai, poi gli extracomunitari, adesso giovani artisti, gallerie d'arte e quant'altro. No, devo dire che per par condicio credo che, visto che mancano solo 15 giorni al referendum, dobbiamo chiamarlo ogni Silo. Tanto anche Silo, ti avviso. Anche Silo. Esatto. Ora, tra l'altro, si stanno moltiplicando le i nomi. Ho saputo anche di alcuni ragazzi che scherzosamente hanno chiamato la zona di Nord Cimiano Noci. E io ho risposto: siamo alla frutta secca. Sta prendendo piede, sta prendendo piede. Però ci confermi che in questo quartiere non ci sono solo gang di Latinos che, ahimè, si sparano ogni tanto, non così spesso, fortunatamente per voi, ma anche tanti gallerie, artisti, professioni intellettuali, designer. C'è un'attrazione. Guarda, in realtà mi viene da dire, in questo quartiere, lo so che è una risposta banale, però spesso la realtà è così, è banale. In questo quartiere c'è di tutto, quindi non ci sono solo, come dire, gang, così come non ci sono solamente hipster creativi, c'è anche tutta un pezzo che sta in mezzo, che magari fa meno notizia, che sono le famiglie, che sono quindi coppie giovani. Certo, condivido molto e sappiamo anche che le etichette non aiutano certo a comprendere. Sì, le etichette non aiutano a comprendere. Ma la paura c'è, un'altra etichetta anche questa, però quando si spara di sera in Piazza Loreto, di pomeriggio, un po' di paura circola o no? Certo, un po' di paura c'è, anche perché non si può essere buonisti, comunque è evidente che c'è un problema, che ci sono sacche di problemi che vanno risolte. Ecco, ma l'esercito può essere la risposta, secondo voi, come dice Sara? Mi sembra che voi siete un po' critici. Avete anche delle vostre propostine, tra l'altro. Allora, faccio fatica, diciamo, a dire noi, nel senso, nella misura in cui la Social Street è di fatto un gruppo allargato che coinvolge 2000 vicini, ognuno ovviamente ha le sue opinioni, quindi in questi giorni tanto si sta parlando di questo argomento. Certo. Devo dire che la maggior parte delle persone si esprime in senso contrario e ci sono invece una minoranza che invece è favorevole, ma abbiamo imparato nel corso del tempo che, insomma, ci sono anche delle minoranze silenziose, no? Assolutamente, quindi libertà d'opinione, anche se forse prevale tra voi della Social Street un no. Perché personalmente voi... posso dire che mi sembra una cosa inutile e sì. Devo dire anche che credo che anche l'amministrazione sappia che è abbastanza inutile. Cioè, a me è sembrata una mossa un po' comunicativa, c'è una cosa che bisogna fare in termini di immagine. Per certo, la cosa bella però, scusa Daniele se ti incalzo, sì, perché purtroppo il tempo non è moltissimo, che voi dite no, cioè tu per esempio dici no in questo momento, anche perché porti in qualche modo delle idee, no? Anche delle piccole proposte su come darsi una mano nel quartiere e garantire per esempio la sicurezza di una ragazza che torna tardi la sera. Sì, noi diciamo che stiamo cercando di fare delle cose, che saranno delle piccole cose, perché non possiamo in nessun modo sostituirci, insomma, alla pubblica amministrazione, né vogliamo farlo. Però quello che noi cerchiamo di fare come Social Street è quello di creare coesione sociale, quindi conoscersi innanzitutto e poi aiutarsi a vicenda. E quindi stanno nascendo un po' iniziative come un numero di emergenza per aiutare le persone anziane, ma anche le persone giovani che hanno voglia, che hanno bisogno in quel momento perché magari sono malate, hanno bisogno di qualcuno che le aiuti, o anche un numero di emergenza per, ma non tanto di emergenza perché non vogliamo sostituirci appunto, ma più che altro un numero qui le ragazze che magari tornano sole la sera a casa e hanno paura, di assistenza, bravi, di assistenza, sì, che possono chiamare in modo da che ci sia qualcuno al telefono e che sappia soprattutto dove si trova, che tratto sta facendo, se dovesse succedere qualcosa può allertare e dire la persona si trovava lì in quel momento quando... Ecco, ma si può chiamare questo numero anche semplicemente se ci si sente soli? Perché io abito abbastanza in zona, volevo sapere. Guarda, il numero, quello di telefono amico, effettivamente l'altro, quello per cui vogliamo aiutare le persone, effettivamente il rischio che succeda questo è elevato. Ma è un rischio che possiamo correre. Esatto, condivido molto che in realtà creare un altro tipo di socializzazione può essere molto utile al quartiere, forse più utile dell'esercito. O diversamente utile. Grazie Daniele Dodaro di Nolo Social Street, li trovate su Facebook naturalmente. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24, anche con le vostre scuse. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la nordica extra flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tumbling down in the city that we love. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Pompei e Bastiglie, perché tra poco parliamo di Pompei, ci sono belle notizie. Intanto un ascoltatore, Gianluca da Terni, ci manda un bel messaggio, Carlo, perché dice: se l'associazione di cui avete intervistato Nolo e la Social Street di Loreto, la zona dove ci sono stati anche stanotte tra l'altro un episodio di violenza a Milano, non vuole, non può sostituirsi all'amministrazione comunale, allo Stato, lasciano l'amministrazione allo Stato il compito di affrontare il problema della criminalità. Se sarà inutile o dannoso lo giudicherà a posteriori. A mio parere, dice Gianluca, ci sono momenti in cui la repressione deve necessariamente affiancare altri tipi di intervento a lungo termine altrettanto importanti e necessari. È una posizione di compromesso, cioè dice l'esercito faccia la sua parte, la polizia magari o l'esercito. Eh no, è questa però una questione, nel senso anche che l'intervento come quello di questi ragazzi che stanno facendo belle giustissimo cose. Volevo solamente sottolineare una cosa, che nel momento in cui si hanno dei dubbi sull'arrivo dell'esercito a Milano, non è sul fatto che non debbano esserci le forze dell'ordine, certo che sì, è certo che devono occuparsi della questione, domandarsi se in realtà chiamare l'esercito e dare in realtà un'altra faccia, perché improvvisamente ti senti anche un quartiere che evidentemente è più a rischio perché hai bisogno dell'esercito, mentre il quartiere di fianco, cioè a sud di Loreto, non hanno l'esercito. Ovviamente Sala ha anche già detto che non si tratta solamente di via Padova ma di altre periferie, è più di questo che stiamo parlando. Nessuno sta dicendo che le forze dell'ordine non debbano assolutamente fare il loro lavoro. Ma salutiamo Massimo Osanna, sovrintendente di Pompei, buongiorno. Buongiorno. Bentornato ai nostri microfoni, Osanna. Allora, qua le notizie non mancano da commentare. Intanto, vabbè, torna a splendere la casa dei mosaici geometrici. Adesso lei ci racconterà la meraviglia di Meglio di noi che abbiamo studiato, ma insomma poco e male. E poi è sabato mattina, quindi siamo contenti di farci che lei ci renda i dotti. Però c'è da festeggiare anche il record di visitatori, che questa è una notizia più facile da dire, no? 3 milioni di biglietti staccati, o sbaglio? Sì, già. Nella prima settimana di novembre, questo è il record. Che era un po' l'obiettivo che lei si era dato, diciamo, dobbiamo arrivare a questo record entro la fine dell'anno. Ci siete arrivati con un mese d'anticipo. E mezzo d'anticipo. Certo, siamo molto contenti di questo, anche perché evidentemente il successo di pubblico premia tutta una serie di iniziative che sono state messe in campo, a cominciare da i restauri che finalmente sono andati avanti, si sono conclusi, le messe in sicurezza, la riapertura di interi quartieri di Pompei. Adesso si può camminare per strade che erano chiuse dal terremoto dell'80, cioè questa è una cosa straordinaria. Cioè che erano 40 anni praticamente, che erano quasi 40 anni. Nelle prossime settimane riapriamo un altro enorme pezzo di Pompei, cioè possiamo dire che alla fine di quest'anno tre quarti di Pompei alle strade tutte aperte, che è una bella conquista. Senta, è una conquista stupenda, perché ricordiamo che sempre a questi microfoni, insomma fino a pochi anni fa, di Pompei si parlava per i crolli, e in questo momento è importante ricordarlo, perché sennò appunto, visto che siamo si può fare, parliamo delle buone notizie legate a Pompei e non del fatto appunto che con i governi precedenti si parlava di crolli, in questo momento invece si sta parlando di 3 milioni di biglietti. Si è potuto fare, diciamo così. Senta, a proposito però della messa in sicurezza che lei diceva, no? I cantieri, l'ultima volta che ce l'hanno sentiti lei aveva detto i cantieri sono tutti avviati. A che punto sono questi cantieri? Sono anche già chiusi? Si stanno chiudendo? Dunque, diciamo i più complessi, sono quasi tutti completati. Sì. Diciamo le messe in sicurezza, che era il primo obiettivo da raggiungere, cioè mettere in sicurezza il 100% di Pompei. Beh, di questo, come dicevo, entro la fine dell'anno chiudiamo il tre quarti di area, quindi dei 66 ettari, tre quarti di 66 ettari sono in sicurezza. Manca ancora un pezzo, che è la regione 1 e 2, dove è l'anfiteatro per intenderci, perché il cantiere è partito tardi, perché ci sono stati dei contenziosi, quindi è stato bloccato l'inizio dei lavori, adesso però finalmente si sono avviati e anche questo entro l'anno prossimo si chiuderà. Diciamo, quindi il grosso è chiuso, adesso manca questo progetto e poi un altro che abbiamo intrapreso all'Atere, cioè non era previsto originariamente nel progetto, uno che riguarda i fronti di scavo, cioè la zona a confine fra lo scavato e il non scavato, perché ci sono certi punti dei Pompei 4 metri di lapillo che insistono sulle strutture scavate e lì vanno messe in sicurezza questi salti di quota con tutta una serie certo. di stiamo di parlando, lo ricordo per gli ascoltatori, proprio della messa in sicurezza anche proprio dal rischio crolli, alluvioni, rischio, quel rischio idrogeologico che è insito in una zona come quella di Pompei, quindi lavori strutturali che insomma, incrociando le dita dovremmo portarci avanti per un bel po'. Lei ha sempre detto ci sono pochi custodi, però a Pompei è un motivo per cui non riusciamo ad aprire tutte le domus, a far vedere tutto quello che c'è da vedere. Adesso con questo record di visitatori, soldi che restano sui siti, spesso degli incassi, potete assumere qualche custode in più? Stai cercando un posto, Alessio? Sì, sì. Anch'io. Li prendiamo qualificati noi. Allora niente. Allora anche speranza. Per i prossimi 10 anni noi ci mettiamo in panchina. Mi scusi, prego. Dicevo, noi sempre a valere sui fondi del grande progetto abbiamo già l'anno scorso e quest'anno cooptato 50 addetti alla vigilanza che si sono affiancati ai nostri custodi. Questo numero è sufficiente ad aprire le case che stiamo aprendo, anche perché continueremo a tenerli anche nei prossimi anni. Ora, l'idea è di tenere questi, ma non solo di aprire solo il stesso numero di case, ma di aprire le case a rotazione, cioè non sempre le stesse case, visto che adesso ne sono restaurate tante e non è neanche, come dire, sostenibile che tanti turisti entrino nelle stesse case, calpestino gli stessi pavimenti, eccetera. L'idea è apriamo tutto, sì, però a rotazione, quindi ci saranno dei periodi che sono aperte delle case, altri periodi altri, in modo da che chiunque entri abbia un'immagine di Pompei chiara della sua dimensione urbana, ma anche della poesia di certe case, delle pitture, eccetera. Però non siano sempre le stesse case. Com'è questa casa, mi scusi Susanna, dei mosaici geometrici? Ce lo dica un po', ci faccia un po' sognare? Questa è una villa in città. Negli ultimi anni di vita di Pompei, l'elite avevano conquistato gli spazi più prestigiosi, che erano quelli sulle mura, perché c'era la vista sul golfo. E questa casa è atterrazzata con Capri di fronte, quindi una vista straordinaria è una pianta che stravolge un po' l'assetto tipico. A quanto la date in affitto adesso? magari. Che meraviglia. Allora, fermiamo. Sì, scusi, dovevo fermarci un attimo per il traffico, però. Sono i mosaici che danno il nome alla casa, che sono straordinari. Cioè, tutte le stanze sono poi diventate con dei mosaici bellissime, con motivi geometrici, che appunto prende il nome alla casa. Tra l'altro, un'altra cosa importante, poi do le informazioni sul traffico. Sbaglio o entro la fine dell'anno avete annunciato percorsi anche per i disabili all'interno di Pompei, che prima quasi non potevano muoversi? Il 2 dicembre inauguriamo un percorso completo che si potrà vedere, superando tutte le barriere architettoniche, tutta Pompei, dal Porto Anfiteatro fino a Porta Marina. Da non crederci. Complimenti. No, se pensiamo dal punto in cui siamo partiti anni fa, i lavori che sono stati fatti, Osanna lo dice sempre, non è che sia tutto merito suo, c'è stato il lavoro dei ministri, c'è stato il lavoro dei soldi europei, tutti ci hanno messo del loro, i custodi, tutti quelli che ci lavorano ogni giorno, però insomma ogni tanto compiacciamoci anche dei risultati. Traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, la storia della rinascita di Pompei, siamo in compagnia del sovrintendente Massimo Osanna, però abbiamo detto tante cose positive. Però c'è una cosa ancora, credo, su cui dovete... il sito web. Perché se uno cerca Pompei su Google, vengono fuori tante cose, viene fuori, io me le sono segnate: Pompei.it, PompeiOnline.net, PompeiSites.org. Infatti è arrivato anche quello, no, quello è il nostro. Ecco, però non è il primo, non è il primo, anzi, forse è l'ultimo. Le giro anche una domanda di un'ascoltatrice che ci chiede: si possono prenotare le visite guidate via internet? Perché non si trova il modo, ci chiede Laura da Milano. Allora, il problema è accolto nel segno, il sito web è l'ultimo aspetto del piano della comunicazione fatto col grande progetto che non è andato ancora in porto. Cioè, abbiamo fatto, hai detto il progetto poco, di ristrutturazione, il progetto c'è e adesso va a bando per la realizzazione e diciamo in 2 mesi sarà sistemato. Oh, questa è un'altra buona notizia. Proprio per questo, sì. Ha perfettamente ragione. Ma il dominio sarà sempre quello, Pompei. Il dominio è questo. Stiamo cercando di comprare gli altri in modo di avere una, come dire, una priorità nella... Perché anche quello poi si sa, è importante. Però d'altra parte, se qualcuno è arrivato però prima... Però la buona notizia è che adesso abbiamo appunto 2 persone proprio responsabili dei social. Abbiamo, oltre ad aprire Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, abbiamo 2 persone che si dedicano a tempo pieno a questo, che è una buona notizia. Ottimo, ottimo. Dovete parlare con Google per farvi indicizzare meglio, di modo che uno scrive Pompei e esca semplicemente il vostro sito. Certo. Senta, l'altro aspetto importante è quello degli eventi, no? Eventi a Pompei, si è detto, lei è un fautore di questo. Anche qui ci si divide tra chi dice no, i siti archeologici, i beni culturali vanno soprattutto tutelati, c'è chi dice invece che vanno valorizzati. Lei mi sembra che cerchi di trovare un equilibrio su questo. Ci sono stati dei concerti, ci sono stati degli spettacoli, sono degli una tantum o ci sono delle stagioni vere e proprie di eventi a Pompei? No, adesso cominciamo con una bella stagione, il 2017 sarà una bellissima stagione per Pompei, abbiamo appena siglato un accordo con il Teatro Stabile di Napoli, il Teatro Mercadante, per drammaturgia a Pompei nel Teatro Grande, quindi giugno e luglio avremo drammaturgia a Pompei, l'Orestea, le Baccanti, tutta una serie di teatri, di spettacoli teatrali di altissimo livello, che sarà anche allieteranno le serate pompeiane. E sappiamo anche di un altro accordo, abbiamo letto di un accordo tra l'Ermitage, il Museo Archeologico di Napoli e voi, giusto? A San Pietroburgo, il 10 novembre, c'era anche lei. Sì, siete informatissimi, complimenti, vero? Abbiamo studiato. Abbiamo firmato questo accordo per uno scambio di collaborazione, sarà innanzitutto una mostra che noi portiamo all'Ermitage, ma poi uno scambio di competenze materiali e anche personale, per curare l'aspetto della formazione fra il Museo dell'Ermitage e noi. Senta, un'ultima cosa riguarda, anche qua ci eravamo lasciati un po' di tempo fa con la questione pendente della stazione ferroviaria. C'era un progetto per creare una stazione di alta velocità a Pompei, osteggiato da, per esempio, dal sindaco di Pompei. C'era discussione, adesso pare che ci sia un altro progetto in auge, che è collegare invece Pompei alla rete ferroviaria già esistente. A che punto siamo? Lei per quale soluzione propende, tra l'altro? Io sarei per l'hub ferroviario davanti a Pompei, perché questo eviterebbe ai turisti di scendere a Napoli, arrivare poi con altri mezzi agli scavi. Il hub ferroviario avrebbe permesso di arrivare con la velocità di fronte agli scavi. Tra l'altro, dov'era la stazione di Pompei nel 1850? Cioè, la prima stazione era là, fatta ovviamente proprio per... Non a caso, insomma, perché era già abbastanza famosa Pompei nel mondo anche nell'Ottocento. Assolutamente sì. E invece verso quale soluzione ci si sta orientando? Siamo ancora in fase molto interlocutoria, quindi io spero che vada nella linea hub davanti, con alta velocità davanti a Pompei. L'importante è staremo a vedere. Anche questo è un tassellino importante, perché bisogna arrivarci a Pompei, anzi sappiamo benissimo quanto invece questo sia stato in passato uno dei problemi, un ostacolo. Grazie Osanna, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, a presto con altre belle notizie. E questa è Pompei, si torna a sognare. C'è chi vorrebbe mettere il bavaglio a tutti quelli che hanno mangiato l'aglio, ma questo odore dico veramente che chi ha mangiato l'aglio non sente. E la bella signora, inorridita, mi guarda con un certo non so che, perché ho mangiato l'aglio, ma è la vita, che l'aglio fa piacere tanto a me. con l'aglio. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato. È una canzone che si intitola Bavaglio, che siamo molto contenti di aver fatto sentire, perché ci è stata inviata da un nostro ascoltatore, Felice Pautasso, che ci ha scritto una letterina bellissima. Carissimi, carissimi, grazie per la compagnia che ci tenete. Se vi può servire, vi allego una delle 60 canzoni che ho scritto, suonato e ragliato, non me la sento di dire cantato, rigorosamente vietate ai minori di 70 anni. Ciao, ne? Da un torinese, classe 1931, trapiantato a Roma, dove ha trovato un ottimo clima per la vecchiaia. Che grinta questo ascoltatore. Esatto, penso che lentamente vi faremo sentire tutta l'opera omnia di questo grandissimo nostro ascoltatore. Vi ricordiamo che voi potete inviarci i vostri Si può fare. Noi stiamo sempre in cerca di Si può fare in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e trovate una canzone dove è ben racchiuso il concetto di Si può fare, vi chiediamo di contattarci, di inviarcela, così la faremo sentire e la metteremo sul sito. Potete inviarci i vostri Si può fare in musica alla nostra mail sipuofare@radio24.it o sui nostri profili social, su Facebook Radio 20, Si può fare trattino Radio 24, su Twitter @ Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @ Carlo Gabardini e c'è anche il mio @ Ale Maurizi. 800 24 00 24. Ascoltatori, tra poco siamo con crowdfunding, due idee innovative che cercano il sostegno dal basso, quindi gli ascoltatori in linea, se volete fare i giurati è il vostro momento. Andiamo con Raffaele che ci chiama da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo parlare appunto dell'argomento che avete parlato proprio all'inizio di trasmissione, sì. Quella della la scuola di Rimini, gli asili, esatto, nido, anzi, sì. Appunto, io ho un'esperienza mia personale, sì. Io sono un operatore assistenziale e mi ricordo che 12 anni fa ero stato assunto in una struttura pubblica che doveva deistituzionalizzare delle persone psichiatriche che erano rimaste per molto tempo in questi centri, e praticamente il tutto fu dato in mano a una cooperativa. Ecco, da lì scoprii che noi andavamo in mano ad una cooperativa. E cosa accadde? Prima questa struttura dove era seguita da medici, psicologi, educatori, tutti qualificati. Ecco, dal momento in cui passammo in questa struttura, diciamo, gestita dalla cooperativa, scoprimmo che in realtà medici non ce n'erano più. Il numero degli... praticamente dovevano esserci 3 inservienti e donare pulizie, dovevano esserci 2 psicologi, 2 educatori, sì. E 10 operatori. E gli inservienti non li vedemmo mai. Dopo 2 giorni ci fu detto che c'era il progetto pulizia con persone che non avevano mai fatto niente nella loro vita, gli ospiti, i pazienti dovevano abituarsi, praticamente con un progetto che noi scrivevamo, dovevano abituarsi a fare la pulizia della casa. Insomma, abbiamo capito, Raffaele, il timore c'è sempre quando c'è questo appalto ai privati di questi servizi, che si abbassi la qualità. Vado a sintesi, sì. Perché sì. E quindi questa è la sua esperienza, Raffaele. Grazie. Se vuol rimanere con noi per giocare anche col crowdfunding, può farlo come giurato. Facciamo sentire anche un altro ascoltatore. Intanto Andrea da Treviso, sempre, buongiorno. Oggi tutti da Treviso. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo aggiungere anche che sì. Se queste maestre non vogliono andare a un settore privato per migliorare anche i servizi e tagliare un po' di spese nei comuni che sono una marea, e vadino a lavorare in fabbrica. Provino a lavorare in fabbrica. No, ma in che senso? Mi scusi. Nel senso che in realtà lei dice giustamente taglia le spese, che è la prima domanda che abbiamo fatto all'assessore, invece si è scoperto che non c'è nessunissimo taglio alle spese. Quindi questa è la questione. Nel senso non che giustamente il comune di Rimini non risparmia. Come? Col tempo sicuramente aumentano, perché sappiamo com'è il pubblico. Può darsi, però, no, non è però a domanda precisa l'assessore ha detto che il comune non risparmierà un euro su questo affidamento, quindi bisogna tenerlo a mente. Però insomma, che dire, Andrea, questo è il suo suggerimento alle anziane, il segnale con la schiena rotta da tirare su i bambini che vanno a lavorare in fabbrica. Ognuno vuol pensare come crede. Marco da Roma, e poi chiudiamo questo blocco, andiamo sulla pausa. Marco. Salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare un piccolo intervento anche a favore della linea proposta dall'assessore, ma per un semplice motivo. Stiamo parlando di Rimini? Sì, di Rimini. Prego, prego. Perché il problema che è stato esposto tra le righe dell'assessore è quello che ogni anno, ma ciò avviene in quasi tutti i comuni italiani, buona parte o comunque un numero abbastanza considerevole di insegnanti ha la possibilità di essere dichiarata disabile, non abile al lavoro di insegnante e quindi trasferirsi nel lavoro amministrativo, dove i carichi di lavoro sono leggermente inferiori. Minori. Esatto, minori, e questo quindi comporta per i comuni una continua riduzione del corpo insegnanti anno dopo anno e la difficoltà di assumere. Sicuramente l'assessore ha lasciato trapelare questo tra le righe, ma non l'ha specificato, perché i sindacati sono molto, molto forti in questo campo e forse aveva paura di ritorsioni, di attacchi, però c'è questo continuo travaso dal corpo docenti al settore amministrativo. No, ma questo è utile ricordarlo, ma infatti la domanda che noi ci facevamo e che facciamo anche a lei, che cosa bisogna fare con le insegnanti che non sono più in grado di gestire i bambini perché hanno una certa età e però comunque ancora un'età lavorativa? Certo, però è sufficiente piccoli problemi fisici per poter ottenere. Sì, ho capito quello che dice Marco. Marco sospetta, come in tanti ci sono ormai, giustamente, il caso dei vigili urbani la notte del 31 dicembre a Roma, tutti in malattia perché non volevano andare a lavorare. Il settore pubblico si tira dietro queste critiche sempre. Ricordiamoci però che fare la maestra e stare tutti i giorni con 30 bambini che corrono e urlano da tutte le parti per 25 anni, arriva un giorno in cui parlare di lavoro usurante non è forse inappropriato. Poi se c'è qualcuno che se ne approfitta, questo noi non lo sappiamo, è possibile. In ogni caso il tema di Rimini è passare ai servizi ai privati, alle cooperative, senza risparmi per il comune e partendo invece da un alto gradimento del servizio da parte delle famiglie. È lì che abbiamo chiesto all'assessore perché, e sostanzialmente siamo ancora senza una risposta, ma non ci addentriamo di nuovo nella storia di apertura. Oggi però non ha chiamato nessuno per darci una scusa migliore di quella di Bob Dylan. È vero, che è vero. Ha rinunciato al momento direi che vince questo SMS, sì. Che dice non posso chiamare per vincere il gioco della settimana perché la mamma non mi lascia. Questa è bellissima. 800 24 00 24, siete ancora in tempo e anche oggi ci sono in palio i biglietti della mostra. Estraiamo dallo scatolone delle mostre del Sole 24 Ore Basquiat al MUDEC di Milano. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, è arrivato il momento di presentare anche oggi due progetti innovativi. Sono startup, sono progetti sociali che cercano il vostro aiuto, cari ascoltatori, l'aiuto di tutti per un finanziamento dal basso. Uno è un progetto che riguarda un comune e l'altro invece è un normale progetto sociale e d'impresa. Andiamo a raccontare il primo di questi due progetti, ricordando che abbiamo quanti giurati in linea, credo un paio: Andrea da Treviso e Raffaele da Treviso. Oggi c'è una concentrazione sul nord-est. Andiamo col primo progetto. E allora, si chiama Insieme Facciamo un'impresa, è un'innovativa iniziativa del comune di Capannori che da quest'anno utilizzerà proprio il crowdfunding, cioè la ricerca di finanziamento dal basso tramite la rete, per raccogliere contributi da destinare alle piccole e medie imprese. Le migliori idee imprenditoriali verranno pubblicate su Eppela. Chi raggiungerà il 75% del finanziamento dal web avrà il restante 25% dal comune. Il comune quindi che dà una mano alle iniziative imprenditoriali che otterranno però il consenso della rete. Ce ne parla Lia Chiara Miccichè, assessore all'innovazione del comune di Capannori. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Eccoci qua. Un minuto, poco più, per spiegare perché, anche se in questo caso non è un progetto questo in sé di crowdfunding, ma è un progetto di progetti. Sentiamo come ce lo racconta l'assessore. Esatto, quello che si vuole dare alle nuove imprese, alle nuove idee, è proprio una filiera di supporto.

se ne trova già qualcosa, ma sono veramente interessanti, estremamente proteici, si riesce a mangiare meno. Ma è stupendo, ma scusi, ma li mangia sotto forma di farina o mangia proprio l'insetto, nel senso che porta a tavola 4-5 scarafoni? Sotto chiaramente non ci riuscirei, dovessi mangiare in forma di insetto. No, le devo dire, praticamente mangio sotto forma di farina, sotto forma di prodotti, e posso dire che sono dei dolci a base di una specie di formica che si trova praticamente in Asia, e si fa un dolce che è favoloso. Meraviglioso, Guglielmo Gozzi, il famoso formicaio di addetto. Avete trovato un testimonial in Raffaele da Treviso. Oggi i giurati erano due, c'è un ex aequo, quindi un pareggio. Perfetto. I due progetti Capannori e addetto hanno entrambi ottenuto un voto. Noi, anche perché ricordiamo che non è che c'è uno che vince e uno che perde, quindi trovate entrambi i progetti sulla piattaforma di Eppela. E anche sul sito di Radio 24, la pagina Si può fare, Crowd Me Up. Io ringrazio l'assessore di Capannori all'innovazione, Lia Chiara Micichè, e Guglielmo Gori del progetto addetto. Grazie. Voglio una cricchella. Complimenti a tutti. E Crowd Me Up torna sabato prossimo, naturalmente. 800 24 00 24. Noi ci fermiamo per traffico. Torniamo tra poco. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma da poca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Protegga i freelance, tutti i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, tutti quelli che il lavoro se lo procurano ogni giorno da soli. Per voi c'è una buona notizia, c'è anche una cattiva notizia. La cattiva notizia è che la buona notizia riguarda i freelance di New York. La buona notizia è che c'è una legge tutta per voi, cari freelance, ce la racconta da New York Simona Siri. Ciao Simona, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao. Simona, la conoscete, è una giornalista, manco a farla apposta, freelance, ovviamente. Sì, come molti ormai. Come diciamo molti ormai. Diciamo... Una di quelli che combatte ogni giorno per procurarsi il lavoro. Questo è un aspetto, in realtà poi ci sono aspetti anche più lieti, più divertenti. Ma cominciamo da questa che forse è il primo caso nel mondo di una legge che tutela in qualche modo i freelance. Viene proprio da New York. No, non è un caso che venga da New York, perché come la gente può immaginare o sa, New York è una città la cui economia si basa tantissimo sui freelance. Magari non li chiamano freelance, li chiamano consulting job, cioè lavoro di consulenza, però in qualsiasi modo è una città che si basa tantissimo sul lavoro di freelance, anche addirittura chi per esempio magari ha un lavoro come dire, non di ufficio, ma comunque anche ha una sua attività, svolge parallelamente anche un lavoro di freelance, cioè avere doppio lavoro è abbastanza comune a New York. Insomma, lavorate un casino a New York, questo l'abbiamo capito. Però questa volta è New York che tende una mano ai suoi freelance, sì, con questa legge. Sì, non è ancora attiva perché deve essere approvata, giusto, firmata da De Blasio e poi Blasio, a tempo insieme dal sindaco di New York. Però è una legge che è stata portata avanti, diciamo, da questa associazione di freelancer con il motto il lavoro del freelancer non è free, cioè non è gratis, che mi sembra un gioco di parole condivisibile, e prevede che anche il lavoro, appunto, chi usa un freelance per un lavoro che può essere nell'editoria, graphic design, in qualsiasi tipo di prestazione, deve avere una specie di contratto scritto in cui si specificano i termini del rapporto, quindi qua quante ore impiegherà il freelance a svolgere il lavoro, ovviamente come avverrà il pagamento, insomma, e soprattutto entro quanto tempo dovrà pagarlo, entro 30 esatto, giorni al massimo. Cioè, in pratica una legge per dire ricordatevi di pagare il freelance, e questo è un po' se vogliamo andare a sintesi. Fondamentalmente è rende responsabile chi assume il freelance e non lo paga di contravvenire a questa legge, quindi può essere, ci si può rivalere attraverso le vie ovviamente giudiziarie legali che sono a disposizione normalmente. Non sia mai che questa legge possa essere in qualche modo importata anche da noi, ce ne siamo occupati tante volte, i freelance hanno bisogno di tante tutele. Insomma, abbiamo capito che con queste elezioni americane che c'è un popolo che è timoroso, che ha paura di peggiorare la propria condizione sociale o addirittura che ha l'incubo di non fare mai una scalata sociale. Chi più dei freelance soffre di una precarietà costante? Che cosa hanno votato i freelance newyorkesi, però, per esempio, per Trump, che non è amatissimo a New York, o per Hillary? No, per Trump assolutamente no. Direi che i freelance, essendo comunque giovani, purtroppo sono quella fascia di popolazione, di elettorato, che Hillary non è riuscita a convincere. Quindi cioè, non hanno votato per nessuno dei due, insomma, forse non hanno proprio votato. Sì, hanno sostenuto molto Bernie Sanders durante le primarie. A questo giro o hanno votato Hillary o non hanno votato. Senti, il sindaco De Blasio, che deve firmare questa importante legge, che comunque è un'emanazione sua, quindi siamo convinti che lo farà, è solo un passaggio formale. Invece, per quanto riguarda Trump, minaccia di non collaborare, minaccia di non fornire le liste, per esempio, dei clandestini. Ora, lui è un Democrat, però anche Obama ha fatto espulsioni di clandestini in passato. Come si mette a questo punto? Sì, no, ma infatti questa è una cosa che fa parte di quella grande porzione di notizie che anche lo stesso elettorato ignora e su cui Trump ha avuto gioco facile, nel senso che facendo disinformazione, non facendo informazione, appunto la gente non sa che in realtà Obama sì, ha fatto un grande lavoro di espulsione dei clandestini. Sì, De Blasio ha detto che non consegnerà le liste, perché in realtà erano stati chiesti i nomi e i dati, quindi anche dal numero di telefono all'indirizzo, quindi i dati sensibili, i dati addirittura che provano che il singolo sia un clandestino, quindi c'è un database enorme ed era stato raccolto in difesa dei clandestini, per cui i clandestini si erano fidati, avevano dato i loro dati al comune. E adesso questi dati potrebbero essere usati al contrario, esatto, potrebbero essere usati però contro di loro. La domanda, Simone, era questa: in passato con Obama c'è stata un'analoga, diciamo, mancanza di collaborazione sul fronte delle espulsioni oppure no? C'è anche un po', insomma, di strategia politica dietro a questa presa di posizione del sindaco di New York De Blasio, forse? No, assolutamente. Poi sa, adesso la notizia, per esempio, di ieri è che ci sarà un incontro tra Trump e Mitt Romney, che è stato in campagna elettorale i due si sono odiati, si sono detti di tutto e adesso si incontrano, quindi certo. Adesso inizia tutta un'altra storia, sì, adesso, naturalmente dopo l'elezione. Bene, quindi noi ti salutiamo però perché siamo davvero in chiusura. Grazie Simona Siri da New York, Dio protegga i freelance ancora una volta, ciao, un abbraccio, a presto. Ciao, grazie. Ciao. E allora, Carlo, questa intervista l'ho fatta da solo perché in settimana tu hai fatto benissimo. Io saluto, se ci sta ascoltando, Simona Siri, mi è spiaciuto, ma non potevo mezzo la settimana perché essendo lei a New York era incompatibile. Abbiamo il tempo per sentire ancora un ascoltatore, ci fa molto piacere. Flavio da Milano, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Effettivamente non sono da Milano. Sono un po' fuori Milano, adesso ti spiego. Sì, quando sì. andavo in quarta superiore, sì. sono entrato trafelato in classe e ho detto: scusi prof, ma arrivo da fuori, al che ti puoi immaginare una ghignata paurosa da tutti. Certo, perché da dove vuoi che venissi. Esatto, invece tutti a ghignare paurosamente. No, perché mi scusi, sa, ho preso il treno, poi due tram, perché dall'altra parte di Milano, no? Ah, allora da fuori cioè, ti stavi arrampicando sugli specchi per giustificare il tuo ritardo. No, da fuori proprio città, no? Abitavo fuori, anche i commenti: sì, si è bucata la ruota del treno, signora, sicura. Le cavallette di tutto, vabbè. Cioè, te la sei giocata con l'umorismo, la cosa però più bella che mi ricordo è quella dei Blast Brothers. quando dite è morta la donna, le cavallette, le inondazioni. Sì, quando lui, incontra l'ex moglie che lo insegue perché lo ha lasciato il giorno del matrimonio, e lui fa un elenco di scuse clamoroso che termina con le cavallette, per l'appunto. E il cerchio si chiude, visto che abbiamo parlato di grilli e di entomofagia. Esattamente, esattamente. E direi che vinci il premio, così, in diretta, senza nemmeno dover passare. Dal via, esatto, esattamente. Bravo Flavio, i biglietti della mostra, anzi forse non era Basquiat, mi dicono potrebbe essere Escher a Palazzo Reale a Milano. Comunque una bella mostra a Milano, tu tra l'altro chiami da Milano, quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Il gruppo 24 ore è attivissimo sul fronte mostre, sempre belle mostre, esatto, ogni sabato mattina, esatto. I biglietti e il premio l'avremmo dato volentieri anche a chi ci scrive i messaggi, ovviamente. Un amico che scrive: non posso telefonare per vincere, non so cosa, perché è andata via la luce, mi giustifico, però per vincere il premio bisogna telefonare, quindi il premio l'abbiamo assegnato, altrimenti ad honorem sarebbe andata questo ascoltatore che chiamava con la scusa nella scusa. Esatto, cioè, esatto, eccezionale. Sto praticamente ma manca pochissimo, purtroppo anche per oggi è finita, finito, e sì. Ci rivediamo e ci risentiamo domani, domenica alle 8:30, giusto? Naturalmente, un ringraziamento come sempre ad Andrea Piano, autore di molte delle stavo per dire una parola riferibile, cose che sentite in onda il sabato e la domenica, così come Claudia Schiattone, Peter Bescapè in regia. Ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini, e anche a chi ci ascolta in podcast. Soprattutto